Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Prima di avere in tasca un cellulare flessibile che si arrotola come una pergamena ci vorrà ancora del tempo, ma la ricerca sul grafene, il primo materiale bidimensionale scoperto dall'uomo, e i progressi nelle tecniche di produzione industriale avanzano rapidamente. Insomma, un materiale totalmente diverso da qualsiasi altro materiale mai prodotto dall'uomo, precursore di un'intera classe di nuovi materiali bidimensionali, sta per diventare un prodotto commerciale e servono criteri di misurazione certi e affidabili che permettano di confrontare i vari prodotti e anche regole per la produzione industriale che ne garantiscano la qualità e anche la sicurezza. I tempi sono quindi maturi perché entrino in gioco, dopo centri di ricerca e industrie, organismi che stabiliscono e diffondono gli standard di produzione globali come l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, che abbiamo sentito altre volte e che è alla guida di un progetto di ricerca europeo mirato appunto a stabilire gli standard per questo nuovo materiale. Ne parliamo con Luca Callegaro, ricercatore INRIM e coordinatore del progetto. Benvenuto. Grazie. Dunque, il progetto intanto si chiama GRACE, è di durata triennale, finanziato dall'EMPIR, che è il Programma Europeo per la Ricerca e l'Innovazione nell'ambito della scienza delle misure. E dicevamo, compito del progetto è produrre conoscenze sulle proprietà in particolare elettriche ed elettroniche del grafene, che serviranno poi a elaborare una normativa internazionale. Allora, Callegaro, intanto mi sembra inevitabile, partiamo un po' ricordando che cos'è il grafene e quali sono le sue proprietà. Bene, il grafene è uno strato atomico di carbonio, ha queste proprietà uniche dal punto di vista elettrico perché gli elettroni sono in grado di muoversi all'interno del grafene con velocità estremamente elevate anche con piccoli campi. Le proprietà poi sono interessanti, sono meccaniche, la estrema resistenza alla rottura, alla trazione, superiore a quella dell'acciaio o del Kevlar, i materiali più resistenti attualmente in uso. La biocompatibilità, quindi la possibilità di essere utilizzato anche con materiali con cellule, con sistemi biologici, la sensibilità agli agenti chimici, la possibilità di essere usato come sensore per molecole, per esempio contaminanti, inquinanti nell'atmosfera piuttosto che nei liquidi. Perché li assorbe molto facilmente, no? Nella sua struttura. E cambia le sue proprietà elettriche, quindi è possibile rilevare un contaminante, se il grafene viene, si dice tecnicamente, funzionalizzato per quel particolare contaminante, è possibile rilevare la presenza di un contaminante per via elettrica, quindi un sensore elettrico di proprietà chimiche. E poi c'è anche la trasparenza, giusto? Che è una proprietà non banale. La trasparenza ottica è particolarmente importante per realizzare i display di cellulari, televisioni. La trasparenza è superiore a quella di qualsiasi strato conduttivo sia possibile fare attualmente. Lo strato deve essere conduttivo perché deve essere possibile, per esempio nel caso del telefonino, rilevare la posizione del dito per via capacitiva. Però contemporaneamente non deve bloccare la luce che generata passa, dal display. Ecco, insomma, appunto un insieme di proprietà fondamentalmente uniche. E voi vi occupate, perché poi il grafene può avere livelli diversi, chiamiamolo così, di purezza, la forma più sofisticata è proprio un singolo strato di atomi di carbonio, anche piuttosto ampio questo strato, no? Un foglio proprio. E voi vi occupate, lavorate su questo tipo di grafene, il più sofisticato, per misurarne le proprietà, dicevamo, elettriche ed elettroniche. Di preciso che cosa misurerete? Allora, le proprietà elettroniche di interesse sono quelle corrispondenti agli interessi dell'industria dei semiconduttori. Una delle applicazioni che si intendono dare al grafene è diventare un sostituto del silicio nei circuiti elettronici. In questo ambito la resistività del materiale, cioè la capacità di poter condurre gli elettroni, risulta particolarmente rilevante. Questa conducibilità della resistività del materiale sono legate al modo in cui gli elettroni si muovono all'interno del grafene, che è diverso da quello dei semiconduttori convenzionali. È tutto suo, diciamo così. Sì, è particolare. È possibile raggiungere all'interno del grafene, se è di particolare purezza, delle mobilità degli elettroni molto elevate. Perché è così importante misurare questo parametro, la mobilità degli elettroni nel grafene? È particolarmente importante perché la frequenza con cui si possono far funzionare i dispositivi, la massima velocità sostanzialmente, pensando per esempio a un microprocessore, la frequenza di clock che interessa a tutti quando lo comprano, è legata proprio alla mobilità degli elettroni all'interno del materiale. La mobilità del grafene è di ordine di grandezza più elevata rispetto a quella dei semiconduttori che conosciamo. E quindi circuiti molto più veloci degli attuali utilizzando il grafene. Ecco, qual è il problema di fondo per quanto riguarda la misura di queste proprietà? Perché non è così facile, non è che uno va lì col tester, no? Certo, esistono due filoni principali di misure. Le misure con contatto, quindi il grafene deve essere ritagliato, se vogliamo, a forma di provino, devono essere gli applicati dei contatti, bisogna fare la misura in un ambiente controllato. Queste misure sono molto accurate, hanno il difetto di essere estremamente lente, richiedere questa preparazione di campioni e essere quindi distruttive per il materiale. Una volta fatta la misura, il materiale non si può più usare per altro. Ci sono delle tecniche alternative senza contatto, che però hanno diciamo un problema di accuratezza al momento, allo stato dell'arte. Queste tecniche generano dei numeri che il produttore di grafene vorrebbe poter mettere sui suoi fogli di specifica, cioè, quando vende il materiale, e questi valori sono imprecisi, molto grandi. E quindi insomma il problema è che da una parte ci sono delle tecniche di misurazione molto precise ma troppo complesse e laboriose per essere applicate in una logica di produzione industriale, mentre dall'altra parte ci sono delle tecniche veloci ma non sufficientemente accurate. E quindi adesso che cosa succederà? Noi faremo un confronto all'interno del consorzio del progetto. C'è un produttore di grafene, un produttore di questi strumenti innovativi di misura senza contatto, c'è un gruppo di istituzioni metrologiche europee che hanno grande, noi compresi, che hanno esperienza nella misura delle proprietà elettriche del grafene. Quindi verrà fatto un cosiddetto confronto, si prenderà dei campioni di grafene, verranno fatti circolare tra i vari istituti, ognuno farà la sua misura e queste misure verranno poi confrontate. Ci si aspetta che le misure senza contatto possano avere avuto dei problemi. Lo scopo del progetto è risolvere le problematiche di queste misure senza contatto, che non sono misure che danno un valore che poi va convertito nel valore di interesse e la resistenza. Sono delle misure indirette, diciamo. Sono misure estremamente indirette, sono misure di riflessione di onde in radiofrequenza, quindi ricavare il valore di conducibilità richiede dei calcoli, richiede delle assunzioni che non è detto che siano completamente verificate nel caso di un materiale così innovativo. Queste tecniche non sono state inventate per il grafene, sono tecniche che esistevano già. Il grafene presenta dei problemi tutti suoi, se vogliamo, nell'applicazione di queste tecniche. Siamo proprio nella fase iniziale del progetto. Che cosa succederà proprio nei prossimi giorni? Proprio in questi giorni l'azienda produttrice del grafene sta spedendo dei campioni ricavati tutti da uno stesso wafer, quindi nominalmente uguali. Ognuno applicherà la sua tecnica di misura e confronteremo i risultati con questo primo giro. Proprio con lo scopo di cominciare a capire dove stanno le grane. Certamente, sì. Non ci aspettiamo che il primo giro di confronti vada già bene, perché sappiamo già esserci delle problematiche. Allora, grazie per intanto Luca Callegaro, ma ascoltatori, se volete saperne di più sullo stato attuale di sviluppo industriale del grafene, appuntamento sempre con lei, Callegaro, a domani.